Allora proseguiamo con atti e misfatti e andiamo, come previsto, a parlare della iniziativa che si è tenuta lo scorso fine settimana all'Aquila, in realtà più di due giorni, dal 5 all'8 maggio, organizzata dalle donne Terre Mutate, che hanno organizzato appunto un incontro nazionale. È andato piuttosto bene, insomma, a cui noi diciamo, siamo andate. A cui noi siamo andate, infatti. Siamo andate il sabato, quindi abbiamo fatto una sola giornata, ma è stata insomma un'esperienza bella e anche importante, diciamo, andare a transitare su quel territorio. Infatti, diciamo, la prima esigenza che queste donne Terre Mutate, che poi sono la rete delle donne in nero leggendaria, poi magari insomma diremo l'elenco di chi ha organizzato, una delle esigenze principali era proprio quella di far venire delle donne in questo devastato territorio aquilano. E infatti sono state organizzate proprio dei giri sia nella cosiddetta zona rossa, nella quale non si può ancora entrare, peraltro non proseguono nemmeno i lavori, e quindi ancora recintata e circondata dai militari, sia nelle cosiddette new town, cioè tutti quegli insediamenti vicino all'Aquila, molto asettici, che sono sorti a seguito appunto del terremoto, le famose case che poi sono state date. E quindi la prima esigenza era un po' di popolare questo territorio, perché effettivamente la vita è molto difficile e non è una terra completamente snaturata dalla sua socialità abituale, quindi anche solo andare è importante. Poi queste donne hanno anche un progetto legato alla ricostruzione, per quanto riguarda loro, della ripresa insomma della quotidianità e della vita, cioè realizzare una casa per le donne. E con questo intento hanno chiamato appunto donne da tutta Italia, sia per far visitare il territorio, come dicevo, ma anche per discutere sui temi e i problemi che loro dell'Aquila hanno trovato più urgenti, comunque più sentiti. E infatti i tavoli di discussione, che erano anche parecchi, comunque sono stati sintetizzati in grossi filoni: la violenza, la comunicazione e la militarizzazione del territorio, i beni comuni e le ricette per vivere bene. Eh sì, insomma, un po' recuperare così un po' il senso della loro esistenza. Noi appunto siamo andate al tavolo Donne in Resistenza, era un tavolo che rifletteva sulla militarizzazione dei territori, appunto uno dei tanti tavoli che ci sono stati. Siamo state la giornata di sabato, e quindi sì, parleremo un pochino di le cose uscite, insomma, le tante suggestioni uscite da questo incontro. Sì, provo a raccontare alcuni degli interventi. Il primo, quello introduttivo appunto di una donna dell'Aquila, è stato proprio quello di raccontare la militarizzazione della città e del territorio, la propria città che diventa luogo di conflitto. Fra l'altro lei, facendo parte delle Donne in Nero, è andata varie volte in Palestina e quindi ha visto che cosa è il conflitto e che cosa è l'occupazione militare di un territorio, e appunto usava le stesse parole, come per esempio quando ha raccontato le costruzioni delle nuove case, delle new town come vengono chiamate, parlava di insediamenti, proprio facendo il riferimento agli insediamenti israeliani in Palestina. Ha citato la violazione e la visione stravolta del territorio, non più libera possibilità di circolare. Ha parlato dell'umiliazione del vivere in un territorio controllato dai militari, ma anche l'umiliazione della violenza istituzionale, delle scelte scellerate governative che sono piombate dall'alto e che non hanno assolutamente preso in considerazione la ricostruzione. Magari poi vi raccontiamo anche l'effetto che ci ha fatto il giro a piedi che abbiamo fatto per il centro dell'Aquila. Sì, di fatto comunque sono dei decreti, come dici tu, che decidono proprio sulla vita degli uomini e delle donne aquilane, che decidono che fine farà quella collettività, e lo decidono dall'alto, senza, diciamo, dare possibilità di autodeterminarsi o autogestirsi. E insomma, questo un po' ce l'hanno raccontato anche nei mesi scorsi, e questa è vissuta appunto come uno forma di violenza, come una umiliazione, insomma. Sì, sì, e della violenza istituzionale e dell'umiliazione hanno anche parlato le donne del movimento No dal Molin, che sono intervenute, che hanno raccontato i quattro anni di lotta furibonda, come l'hanno definita, contro la base, in cui hanno cercato tutti gli strumenti per contrastare la costruzione della base. Il movimento ha portato tanta ricchezza, anche il risveglio di una città molto cattolica e per bene, però appunto l'umiliazione di non essere riuscita a contrastare il progetto. Infatti la base viene costruita in questo momento, e appunto la cittadinanza, che voleva trasparenza, è stata umiliata e ingannata. Sottolineavano le donne di No dal Molin, ma anche altre, l'importanza comunque di continuare a resistere per il bisogno di insomma continuare a dire di no alla base, per anche immaginare, vuol dire anche immaginare un mondo diverso dove le risorse siano usate in altro modo. Veniva per esempio citato il fatto che se i soldi della base fossero stati portati per la ricostruzione dell'Aquila, ma vabbè, sappiamo che non è così che funziona. Sono state citate le associazioni di volontariato come la Croce Rossa e la Misericordia, che hanno agito praticamente e capillarmente la militarizzazione del territorio e delle vite degli aquilani e delle aquilane portate nelle tendopoli, come una sperimentazione appunto all'Aquila di una forma di controllo del territorio. Che altro dire? Io sto qui con gli appunti davanti che ho preso. Beh, si è parlato un po' anche dei luoghi, cioè delle case delle donne, perché poi questo era un tipo, diciamo, di modo di stare nella società, appunto il mettere in piedi delle case, che accomunava anche altre presenze lì, insomma, donne, appunto penso a loro di Ravenna, che stanno inseguendo, diciamo, lo stesso sogno di aprire una casa delle donne. Quindi diciamo è un progetto che accomunava molte di loro, non soltanto le aquilane, e forse intorno a questo si è articolato un po' un discorso che poi in realtà va avanti negli ultimi anni diciamo all'interno del femminismo, e cioè la necessità di allargare la definizione di violenza dai confini soliti in cui di solito i media ce la vogliono mettere, insomma, quando ce la mettono, e quindi posizionarla in questo caso anche sul piano istituzionale, saper leggere che essere umiliate è una forma di violenza, essere impedite a fare qualcosa è una forma di violenza, essere sradicate da un posto all'altro, non poter scegliere esattamente dove andare. E quindi l'importanza un po' collettivamente che si è riconosciuta è questa di creare dei nessi sia tra i tipi di violenza, sia tra i modi in cui viene appunto esercitata. E quindi si sono fatti anche appunto qualche paragone tra la violenza domestica e invece la situazione appunto dell'Aquila, e su questo forse anche l'importanza di esprimere un po' di esperienze, di condividere un po' di esperienze, insomma fa sempre bene. Sono venute anche le compagne dei collettivi che stanno combattendo contro la legge Tarsi a portare la loro testimonianza, insomma, per cui questo concetto di violenza un po' un filo rosso che ha legato vari tipi di riflessione. Un altro concetto che è emerso è quello del collegamento fra l'emergenza e la costruzione dell'emergenza da un punto di vista mediatico, ma non solo, e come questa in realtà sia una normalità, però viene usata per stravolgere la normalità e per portare provvedimenti repressivi. Sono state citate varie ordinanze in varie città, in vari comuni. Per esempio, a me ha colpito quello che dicevano, mi sa sempre loro, di le donne in nero di Ravenna, della militarizzazione del divertimento, del divertimentificio nel litorale adriatico. Appunto, il metodo è sempre quello, una situazione economica comunque di business che viene presa di mira dalla stampa, viene creata l'emergenza e poi questa apre la porta alla militarizzazione, alla presenza appunto delle varie forze dell'ordine sul territorio. Eh sì, diciamo, probabilmente adesso ci metteremo anche in contatto con una delle organizzatrici che appunto è una donna del centro antiviolenza dell'Aquila, che si sta ricostruendo a fatica, che sta dentro questo progetto di creazione di una casa delle donne all'Aquila, e quindi magari ci racconta un po' più per esteso come sono andate tutte le giornate. Non c'era una volontà, diciamo, di sintesi, no. Nei tavoli di discussione. È stata un'ottima occasione per rincontrarsi in alcuni casi, per scambiare esperienze, ma soprattutto per popolare un pochino questa unica via praticamente che ora caratterizza il centro dell'Aquila, unica via transitabile, che è stato bello, insomma, era piena di donne, alcuni esercizi commerciali, perché poi sono pochissimi quelli aperti nel centro, erano comunque aperti, popolati, c'è stata, insomma, è veramente importante, diciamo, andare anche a passeggiare un po' da quelle parti, e effettivamente, insomma, è un territorio completamente devastato e sul quale non si sta facendo effettivamente nulla. Questo relativamente al centro storico, la donna del centro antiviolenza per esempio raccontava che c'è stato proprio un riposizionamento dei luoghi aggregativi, per cui ora all'Aquila il centro commerciale è, diciamo, il posto che ha sostituito quello che era prima il centro storico, per cui i giovani stanno sostanzialmente, sostano in questi centri commerciali fuori, e poi ci sono le new town, quelle che ha chiamato anche insediamenti, le nuove Aquile, però dei luoghi completamente asettici, senza i marciapiedi, senza appunto un bar, senza una piazza, una panchina, eccetera. Ci sono quei pochi bar o locali che sono riusciti ad aprire, e che sono comunque ancora veramente pochi. Di notte l'Aquila è una città spettrale, buia, insomma, difficile veramente starci, quindi sì, fra l'altro non solo la zona antica, diciamo, sopra in alto sulla collina è tutta quanta terremotata e tutta quanta chiusa, ma anche le zone intorno, i quartieri, diciamo, di palazzine di 5 piani anni 50 per intenderci, anche quelle sono tutte terremotate e tutte chiuse, tutte disabitate. Io racconterei questa cosa dei giunti. Sì, è vero, ci ha impressionato, ed è assurdo. In questo giro che abbiamo fatto per il centro abbiamo visto come gli edifici sono stati puntellati, che è l'unico tipo di intervento che è stato fatto. Sono stati puntellati con quantità di tubi innocenti infinita. Ogni tubo innocente, per essere collegato con l'altro, ha bisogno di giunti. I giunti costano 27 euro l'uno. Per cui una spesa enorme, fra l'altro una delle ditte, grandi ditte di distribuzione e creazione di giunti e di tubi innocenti, è quella della Marcegaglia. Per cui questo è il tipo di intervento per cui sono stati spesi dei soldi, sembra che siano stati spesi anche molti soldi, però appunto non per la ricostruzione ma per il mantenimento dello status quo. E certo, il centro storico di fatto è un unico enorme intrico di giunchi fuori e dentro i palazzi, fuori e dentro i palazzi. E poi si è tenuto un tavolo apposta, ma forse vale la pena menzionarla, la militarizzazione. C'è l'esercito, ci sono la polizia, i carabinieri, girano, fanno, è veramente una città in mano a loro. Tra l'altro l'esercito ferma le persone, chiede i documenti, controlla chi passa, chi non passa, cose che non potrebbero fare, questo, insomma, perché ci è stato raccontato, non che quando c'eravamo noi abbiano fatto niente, però insomma, diciamo, la presenza quotidiana nelle vite dei uomini e donne aquilane è anche fatta di questo. Se ti vuoi avvicinare a quella che era la tua vecchia casa devi litigare col militare, non ti fanno entrare, ti chiedono il documento, e tra l'altro non potrebbero neanche perché non spetta a loro Vabbè, ma comunque, insomma, questo è veramente impressionante, cioè, c'è l'esercito ovunque. E però è anche visibile, cioè sono visibili atti di resistenza da parte della popolazione, perché per esempio è abbastanza pieno di cartelli fra l'ironico e il drammatico che denunciano la situazione, così come uno dei posti che era attraversato da questi due giorni e che esiste all'Aquila è il l'asilo occupato che è in centro. No, per cui cioè, poi è anche tangibile comunque la rabbia e la voglia di resistere, sì, da parte della popolazione. Immaginiamo che non sia facile farlo, ma sì, certo, per fortuna ci sono delle forme di resistenza, tra cui questa appunto della 3-4 giorni all'Aquila organizzata dalle donne. Allora noi adesso chiamiamo, e quindi mettiamo un piccolissimo stacco musicale, chiamiamo Simona del Centro Antiviolenza dell'Aquila, e chiediamo a lei di chiudere, aiutarci a chiudere, fare un po' un bilancio di queste 4 giornate. Allora, torniamo in diretta, come annunciato siamo al telefono con Simona del Centro Antiviolenza dell'Aquila, ci senti? Sì, ciao. Ciao. Allora, con Daria abbiamo cercato, insomma, di ripercorrere, per quanto ci è riguardato, la giornata di sabato, insomma, di parlare di questa vostra iniziativa dal 5 all'8 maggio. Ti chiediamo di raccontarci un po', tu che hai il polso, di come è andata tutta queste 4 giorni, insomma. Sì, guarda, secondo noi è stata un'iniziativa straordinaria, non solo perché sono affluite circa tra le 6 e le 700 donne in città, quindi già questo ha una valenza straordinaria, perché vuol dire che il nostro appello è stato non soltanto raccolto, ma prima ancora sentito, no? Quindi c'è stato questo forte senso di condivisione che ci ha fatto molto bene, perché ha restituito senso proprio all'iniziativa che noi avevamo pensato. È stato molto intenso il lavoro svolto nelle stanze, perché appunto le stanze sono state molto frequentate e i temi che sono stati proposti sono stati affrontati, elaborati, tanto che già adesso tante ci chiedono di avere restituzione di questo lavoro, proprio perché possa essere anche base, piattaforma per documenti, per proposte future. La cosa positiva è che appunto a fianco alla riflessione sono uscite anche proposte, è uscita anche la volontà di continuare ad essere con noi per realizzare la casa delle donne all'Aquila. È uscita un po' anche l'idea che l'Aquila possa diventare un centro propulsivo a partire da questa iniziativa, di linee da seguire, di proposte da fare, nel segno insomma di quello che ci interessa come concetto di riappropriazione dei luoghi che vogliamo fare a partire proprio dall'Aquila. Quindi è stata un'iniziativa straordinaria che ha segnato proprio un punto anche per la stessa città, che magari non ha dato una grande risposta in termini di presenze di donne proprio dell'Aquila, questo non è accaduto, però per noi che comunque all'Aquila viviamo è stato certo. molto importante vedere che tante donne sono arrivate e che questa cosa non sarà un'iniziativa che finirà con l'8 maggio, insomma. Bene, quindi speriamo insomma di riaccogliere a breve qualche altra idea che vi è venuta e qualche altra iniziativa, perché sì, l'abbiamo riconosciuto anche noi poi con l'esperienza di aver fatto il giro e tutto quanto, è importante anche proprio transitare per l'Aquila, cioè cercare sì. di organizzare molti momenti così, perché insomma comunque anche la... Sì, abbiamo visto che è stato importante anche questo, perché tutte le donne che hanno fatto le visite guidate sia in quella che è ancora zona rossa, sia nel cosiddetto progetto case, si sono rese conto dell'enorme distanza che c'è tra quello che è stato detto ed affermato da tutti i mezzi di comunicazione e le condizioni reali in cui versa la città, e vedere nei loro occhi proprio lo sgomento, lo stupore. Parliamo comunque di donne da sempre impegnate, quindi donne anche che evidentemente nonostante lo sforzo non sono riuscite, perché non si riesce a cogliere realmente la portata di quello che all'Aquila succede finché non si va a visitarla, quindi anche questo ci dice che è fondamentale continuare a proporlo, proprio perché non solo non cada l'attenzione sulla città, perché tanto quello è già accaduto in buona misura, ma quantomeno che chi viene poi possa ritrasmettere un'altra idea. Bene, sì sì, vabbè, so che c'è stato un sondaggio a fine di ogni tavolo sul nome della casa, tu ci dai qualche sì. anticipazione, sai già che... Ma guarda, è stato molto votato il nome che era Donna di Maggio, però siccome piace anche la parola mutata, alla fine da alcuni tavoli è uscita la proposta che potesse essere casa donna mutata, però non siamo ancora in grado di dire qual è il nome definitivo, perché stiamo ancora verificando tutte le risposte che ci sono state date. Anche questa è una cosa importante, perché condividere a partire anche dalla scelta di un nome fa sì che quello diventi un luogo veramente per tutte. Sì. Sì, va bene Simona, noi ti ringraziamo molto. Allora, se fate delle pubblicazioni o mettete in rete insomma parte delle riflessioni, noi volentieri, lo diciamo qui per radio, le rigiriamo e poi teniamoci sì. in contatto insomma comunque. Sì, anche perché il nostro sito continuerà ovviamente ad esistere, anzi si arricchirà di tutti i contributi, quindi è importante ricordare che l'aquiladonne.com continua a essere un sito attivo su cui poter trovare tutte le informazioni relative alle attività che svolgeremo. Sì, infatti c'è anche una parte sulle storie dell'Aquila che è molto carina da leggere, insomma sono sì. testimonianze. Sì. Va bene, grazie mille e grazie a voi. Buon proseguimento e ci sentiamo presto. Arrivederci, grazie. Ciao, ciao, Simona, ciao. Ciao.